aria paesana, ci sono i panni stesi al sole, provoloni e pummarola, scugnizzi quanti se ne vuole, tutto come sta qui, ma dove sta, ma dove sta, nudo che mare, la marchetella quell'ampare, piccola Italia, che ho solo io, e solamente due parole, ma chi se mai imbriaca te sole, come in Italia. Di grotta e serenate, quante guaglione innamorate, ma soveri e non